16강 어휘 bacio cappuccino compito compleanno fastidio fumo genitori moglie ombrello regalo sigaretta viaggio augurare controllare dare dire entrare mandare offrire regalare scrivere telefonare uscire dare del lei dare del tu 문형 Mandiamo una email al professore? Sì, gli mandiamo un'email. Che cosa gli dice quando le dà un regalo? Gli dico grazie. Auguriamo loro buon viaggio? Sì, auguriamo loro buon viaggio. Regali qualcosa alla tua mamma il giorno del suo compleanno? Sì, le regalo qualcosa. Deha. Chi le dà le lezioni di italiano? Il signor Che. Che cosa le dà sua moglie prima di uscire di casa? Mi dà un bacio. Le dà fastidio il fumo delle sigarette? No, non mi dà fastidio. Ci diamo del tu? Sì, diamoci del tu. Che cosa scrivi? Scrivi al tuo amico? No, non gli scrivo. Faccio il compito di italiano. Quante volte telefoni a tua moglie? Io non le telefono, ma lei mi telefona ogni tanto per controllarmi.